Maurizio, però non ti arrabbiare perché tu sei grosso, sei... non è che è il lottatore per finta, Maurizio, sei largo come lo studio, quindi mantieni la calma, se no a me, a Roberto Scaltritti che è regia, ci spazzi via in un istante. Maurizio, allora, grande subbuglio nel mondo internazionale per questa potenziale esclusione della lotta, e tu però hai preso, non sei stato a guardare, no? A fronte di questo primo passo del CIO, che poi vedremo se si concretizzerà. In nome della tua passione per la lotta hai fatto un viaggio e non di pochi chilometri. 10.668 chilometri, per l'esattezza. Beh, appunto, no? Non è tanto per spero che tu abbia un diesel, perché almeno turbo diesel. Ecco, vabbè, almeno diciamo il portafoglio non ha risentito più di tanto. Perché questo viaggio? Perché ogni federazione, la notizia che il CIO aveva in mente ed ha in mente questa esclusione, ogni federazione nazionale della lotta ha deciso in qualche modo di scendere sul tappeto per far sentire la propria voce, per far retrocedere da quella che sembra una scelta veramente blasfema, direi. La Federazione Italiana in qualche modo ha incaricato te di portare questo testimone in giro per l'Europa e non solo. Sì, l'idea è partita da me quest'inverno quando successe questo abominio, questa decisione completamente assurda, fuoriuscita chissà come da qualche gioco politico di componenti del CIO, perché purtroppo bisogna ammetterlo, anche lì c'entra questo discorso. Sta di fatto che a me venne questa idea di fare questo viaggio attraverso i paesi che, dove la lotta conta quanto il calcio da noi, certo, dove la lotta è trattata come religione, un viaggio interamente in macchina, passando appunto dai Balcani e poi per la Turchia e poi arrivando fino nel Caucaso, fino ai confini con l'Iran, cosa che poi ho fatto insieme a mio figlio Vladimir, che è un atleta di livello internazionale, campione italiano juniores di lotta ed è fa parte della nazionale giovanile italiana. Insieme abbiamo intrapreso questo viaggio, abbiamo proposto questa idea alla nostra federazione, la federazione ci ha appoggiato, ci ha appoggiato anche la FILA, che è la Federazione Mondiale della Lotta, e siamo partiti alla fine di giugno. Siamo ritornati dopo circa un mese di viaggio attraversando tutti questi paesi e andando a fare un reportage su quello che è la lotta in questi paesi, dove diciamo così è la culla, l'origine di questo sport. Ecco, tra l'altro è molto importante un aspetto che tu non hai mancato di sottolinearmi nel momento in cui ci siamo conosciuti prendendo un caffè, che la lotta è così, è un'attività tanto archetipa, primigenia della nostra cultura sportiva, che viene declinata quasi da ogni paese a suo modo. In Svizzera c'è un tipo di lotta, in Turchia ce n'è una, che sono le cosiddette lotte tradizionali, si sovrappongono, no? Con la tradizione, con la cultura, col folklore. Infatti siamo andati anche alla ricerca, anche e soprattutto alla ricerca delle lotte tradizionali che si fanno in questi paesi come la Turchia, come la Georgia, e ognuna di loro ha delle sue specifiche. Lottare si lotta sempre comunque, magari con dei regolamenti un po' diversi da quello che è la lotta olimpica, che ricordiamo si divide nei due stili, lotta greco-romana e lotta stile libero. Il CIO vorrebbe far fuori tutti e due, ecco, per non far prigionieri esatto, per non far torti a nessuno, sì. Diciamo così. E questo è stato proprio il succo di questa ricerca che abbiamo fatto, di questo viaggio, la ricerca della primordialità della lotta. Infatti uno degli appuntamenti più importanti e più belli e più toccanti che abbiamo vissuto io e Vladimir è stato il torneo di Kirpinar, Jagli Gurash Kirpinar, che si è svolto ai primi di luglio ad Edirne. È una manifestazione. Siamo in Turchia, no? Siamo in Turchia, ai confini con la Bulgaria, nella parte della Turchia europea. E lì si svolge questo torneo, pensate, ininterrottamente, senza mai smettere, dal 1361. Avete capito bene? Quella di quest'anno è stata la 652esima edizione. È la manifestazione sportiva, e tengo a precisare sportiva perché la lotta non è uno sport che incita o induce alla violenza. La lotta è sempre stata intesa come sport. Ma assolutamente, fai bene a ribadirlo. La lotta è sport. Da questa tribuna non l'abbiamo mai messo in dubbio. l'attività sport da che cosa deriva? Da de porta, fuori dalle porte, attività che si fa fuori dalla porta, fuori dal, dall'interno del, del centro città. La lotta si è sempre fatta fino dall'antichità, fino dal tempo degli Egizi, a prima ancora, perché ci sono delle cose, dei ritrovamenti archeologici che appartengono all'epopea di Gilgamesh degli Assiri. Quindi, insomma, pensate a quanto andiamo indietro di 4500 anni. Delle origini del, e già allora si faceva la lotta, ma non come esigenza di sopravvivenza o di attacco o di difesa. Era per fare sport, era per fare attività sportiva. Ritorniamo su questo torneo per far capire come viene vissuta questa attività, perché qui è una disciplina di nicchia e ce ne ricordiamo quando i vari Mincuzzi o Maenza certo. conquistano delle medaglie olimpiche, ma lì vanno in 20.000 allo stadio della lotta. Per la finale c'erano 20.000 persone e io ho potuto assistere a questa manifestazione dall'interno del campo come inviato della, della fila, della federazione, come giornalista della fila, quindi potete immaginare quale emozione sia stata essere lì in quel momento, 3 giorni di fine all'interno del Sarai Sagmacillare, il campo di gara, e, ed essere lì, assistere a questo spettacolo che è stato veramente qualcosa di eccezionale. Insomma. Altre cartoline, perché mi incuriosisce questo viaggio nel Caucaso dove davvero questi combattimenti sono... fanno parte anche della tradizione dei villaggi, regolano i rapporti di forza tra le famiglie, no? Vi dico solo un nome, Ilias Iliadis, medaglia d'oro nel judo per la Grecia alle Olimpiadi di Atene 2004. Ilias Iliadis vince nel judo, categoria mi pare 74 kg o giù di lì, nel judo, ricordiamocelo, non si chiama realmente Ilias Iliadis, ma si chiama Zurab Zviadauri. Zurab Zviadauri nasce 18 anni prima di aver vinto la sua medaglia olimpica ad Atene d'oro nello judo in un villaggio remoto del Caucaso in Georgia. Viene visto da un tecnico di judo greco che lo prende, lo adotta, lo porta in Grecia, gli cambia il nome, lo fa diventare Ilias Iliadis. Questo ragazzo faceva la Chidaoba, che è la lotta tradizionale georgiana, e che si avvicina tantissimo anche allo judo, perché lo judo è una lotta. È una lotta che è nata in Giappone, ma sempre corpo a corpo, combattimento corpo a corpo. E questo ragazzo viene portato in Grecia, viene portato allo judo e vince dopo solo 2 anni di pratica, con l'esperienza che ci aveva della Chidaoba, dalla lotta tradizionale georgiana, vince la medaglia d'oro ad Atene 2004. Senti, mi incuriosisce molto e vale la pena spiegarlo anche ai nostri ascoltatori di come questa appunto paventata esclusione da parte del CIO abbia funzionato anche come diplomazia parallela, avvicinando appunto, come dicevamo, Stati Uniti, Iran e Russia, che hanno creato un fronte trasversale per opporsi a questa potenziale decisione. Ecco, raccontaci brevemente come si è creato questo fronte che fa dialogare i nemici storici. L'hai detto tu, Iran, Russia, Stati Uniti, 3 paesi dove la lotta viene trattata a livello come da dove viene trattato il calcio. Chi è campione di lotta, della lotta olimpica in questi paesi, è un campione a tutto tondo, e quindi è stato ovvio e logico che di fronte a una minaccia di questo genere, fatta da gente completamente incompetente di sport, tanto per andarci leggeri, tanto per essere chiari, e ripeto, completamente incompetente di sport, perché alle Olimpiadi si parla di sport, hanno creato questa cosa che per un certo verso sta facendo anche pubblicità al nostro movimento, ai lottatori stessi. Non se ne è mai parlato così tanto quando è uscita questa assolutamente ipotesi. Sì, e quindi questi 3 paesi si sono avvicinati, tant'è vero che degli ex campioni, ma parlo di campioni di livello internazionale, che oggi come oggi sono dei capoccia di Wall Street, hanno organizzato un torneo internazionale USA, Russia, Iran in una stazione della metropolitana che sta a Wall Street, e hanno organizzato questa gara fra le tre nazionali. Pensate un po' che cosa sono riusciti a muovere. Noi abbiamo fatto questo viaggio, a Wall Street hanno fatto un'altra cosa, Putin ha speso delle parole d'elogio nei confronti della lotta e ha detto espressamente se quelli del CIO sono diventati pazzi. Lo stesso Roj, quando è venuto a sapere della decisione di questo comitato esecutivo, non sapeva più che pesci pigliare. Infatti la lotta da esclusa è stata rimessa in coda fra gli sport che devono rientrare. Io penso che finirà a tarallucce vino, comunque è di per sé una cosa... non so come dire, sgradevole, per dire una bella parola. Beh dai, scherziamoci su, ipotizziamo che quelli del CIO l'abbiano fatta apposta per fare un po' di pubblicità a questo splendido sport, e mi fa ridere questo Rogge che non sa cosa succede nelle sue commissioni, insomma, decisioni prese a sua insaputa. Ma è la realtà. Che mi fanno pensare anche ad altro, ma vabbè, dai, su, Maurizio Casarola, grazie per essere stato con noi a bordo campo, per grazie averci raccontato qualche cartolina di questo splendido viaggio. Tu sei anche collaboratore della provincia di Como, scrittore prolifico, io ricordo giusto questo titolo, Si fa presto a dire lotta, storie di lotta e di lottatori, edizioni Arte Rigere, e poi chi vorrà vedrà anche tutte le altre due pubblicazioni. Il suggerimento con cui vi salutiamo oggi è quello di fare al più presto un bel viaggio a Olimpia, lì c'è il ginnasio dove potrete vedere anche quelle splendide immagini, splendide testimonianze proprio dei primi lottatori che hanno fatto grandi fin dall'origine la storia dei giochi, vero Maurizio? Sì, un'ultima cosa se mi è permesso, palestra, l'origine della parola palestra, in greco antico come in greco moderno, lotta si dice pale, la palestra è il luogo dove si fa la lotta. Che aggiungere? Grazie a Maurizio Casarola per averci accompagnato sul tappeto oggi a bordo campo. Per a bordo campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia, vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito web www.radio24.it, scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di a bordo campo sempre sul nostro sito web. L'appuntamento come d'abitudine per domenica prossima alle 14.30 e il sabato mattina in replica alle 6.15. Un saluto da Dario Ricci.